Giorno di borsa, Meazza e Rosciani si sono i due di denari. Meazza finita, la pioggia ci parla e ci sparla dell'IVA e così il dolce sorriso di Deborah nei loro pensieri ora c'è. Sono i due di denari e ci fan pensare e un po' risparmiare. E pensan sempre a noi. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Allora, io dovrei andare venerdì mattina dal gommista a mettermi in regola con l'obbligo di dotazioni invernali a pochi giorni dall'entrata in vigore appunto di questo obbligo, si parla del 15 novembre, ma cara siamo in una Deborah, zona un po' problematica, aspetta. In una zona un filino rossa, ecco, cosa allora, faccio come Mauro? prima Dimmi cosa tu. Leggi il Sole 24 Ore, le pagine di Norme Sì, Tributi, poi telefono a Maurizio Caprino, ecco. Poi puoi chiamare anche Maurizio Caprino, certamente, che è il massimo esperto, il quale oggi proprio sulle pagine del Sole 24 Ore ti informa che bisogna che qualcuno ci chiarisca che il cambio gomme è uno stato di necessità. Quindi è uno dei motivi che possono essere addotti nella autocertificazione per dire sì, sono uscito, sei uscita di casa perché dovevi andare a cambiare gli pneumatici della tua autovettura. Però in questo momento sì, nelle FAQ che sono state diffuse nei giorni scorsi, sì, non c'è ancora questo tipo di chiarimento. Quindi dice Maurizio Caprino che dovrebbero arrivare una circolare ministeriale oppure una domanda e risposta dedicata al tema. Vediamo se questo arriva, così puoi andare serenamente. Sai cosa puoi fare? Ascolta Radio 24, specialmente a quest'ora, questo programma che spesso si occupa anche di dare questo tipo di informazioni, cara Deborah. Facciamo tutta una puntata dedicata all'argomento, al tema degli spostamenti, perché ci sono tante questioni aperte. Io direi che venerdì potremmo già fissare nella nostra bella agenda questo argomento. Peraltro leggevo anche un'altra curiosità, sempre sottolineata da Maurizio Caprino, che esiste, mi faceva un po' sorridere, ma in realtà sembra una soluzione utile. Esiste una modalità più semplice ed economica per mettersi in regola con le gomme dell'auto. Ci si può dotare di un paio di calze speciali antineve. Normalmente, racconta Maurizio, sono prodotti non riconosciuti come sostitutivi delle catene da neve, salvo che abbiano la marcatura CE. Occorre quindi verificare che essa ci sia. Chissà dove si trovano queste calze, ma direi che faccio prima a chiamare il gommista, Mauro, e chiedergli se è il caso che io venerdì mattina mi presenti o meno. Anche perché lavoro da casa, mi sposto pochissimo e quindi l'auto è lì bella ferma. E al momento non mi serve. E questo sarà anche un bel tema da mettere in agenda venerdì. Che facciamo? Avremo un'ulteriore riduzione dell'RC auto, ad esempio, mi viene da pensare. Ma sai perché? Sì. Perché anche oggi, ieri abbiamo parlato di contributi a fondo perduto, come è noto, del decreto sì, legge Ristori. Adesso c'è il nuovo decreto legge Ristori bis che amplia la platea. Tutti i particolari oggi sul Sole 24 Ore con tanto di tabellone delle attività sostenute. E però dei oggi... codici Ateco. Bravissima, vedo che sei sempre preparata e questo mi dà veramente soddisfazione. Mi piace tanto dirlo, il codice Ateco. Allora, come lo dici tu, codice Ateco, secondo me non lo dice nessuno. Adesso chiediamo a Pietro Lacorte, che dall'altra parte sorride dietro la mascherina, lo vedo, di salvare questa cosa, codice Ateco, lo mettiamo quasi come puntellatura del nostro, sottolineatura del nostro programma. No, dicevo, tutta questa premessa per dire che oggi parliamo di bonus, cioè torniamo un a paio. Parlare, torniamo a parlare di due bonus, quello per le bici elettriche, i monopattini, come dire, funestato da un click day che non è stato fortunato, diciamo così. Per, sì, me l'hai lasciato affrontare da sola, tra l'altro, quell'altro, l'ennesimo crash di un sito pubblico, che era quello del Ministero dell'Ambiente in questo caso. Non è stato un bel momento. Però tu, sempre da sola, venerdì scorso, hai parlato anche di un altro bonus, quello per, diciamo, il miglioramento delle connessioni, potremmo chiamarlo un po' il voucher banda larga, così è sintetizzato, che è riservato a famiglie che non hanno un ISEE inferiore, diciamo non superiore ai 20.000 euro. Siccome diversi ascoltatori hanno detto sì, ma è un po' complicato, non potreste rispiegarlo, allora noi pronti, siamo qui apposta, parleremo anche di questo. 800240024 se volete intervenire in diretta, oppure 349-238-6666 per messaggi SMS oppure WhatsApp. Cara Deborah, che vuoi fare ora? Direi che possiamo partire con il nostro giornale radio del risparmio. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. And we're down, we go. Allora, parto io, Mauro, che ne dici? Volevo raccontare della possibilità da oggi di fare la domanda per ottenere il reddito di emergenza. Anche questa misura di sostegno al reddito è prevista dal decreto legge 28 di quest'anno, dal decreto legge 28 ottobre, il 137, il decreto ristori. Il ristori 1 per la precisione, per gli appassionati esatto, del genere primo, come non me. Il bis. Perché prego. Il bis è quello che è relativo appunto alle nuove misure di restrizione dell'ultima settimana. E allora da oggi, 10 novembre, dicevamo, è possibile presentare la nuova domanda di reddito di emergenza, ed è una misura che prevede due unità per i mesi di novembre e dicembre di quest'anno. Naturalmente ricordiamo che l'importo sta abbiamo, a forma appunto. Abbiamo Deborah, abbiamo un problema sulla tua connessione, allora io completo questa notizia e do anche quella successiva. Intanto rapidissimamente Marco Lombardo e Pietro Lacorte ci riconnettono a te. Allora, come stava spiegando Deborah, l'importo totale del reddito viene calcolato in base al numero dei componenti del nucleo, va dai 400 fino agli 800 euro. La cifra può essere anche più alta se poi nella famiglia è presente un componente con disabilità grave oppure comunque non autosufficiente. Quindi residenza in Italia del richiedente, ISEE fino a 15.000 euro, importo del reddito familiare riferito a settembre 2020 inferiore all'ammontare mensile del beneficio spettante, quindi da 400 a 800 euro sono alcuni dei requisiti per il reddito di emergenza. Oh, mi fanno ampi cenni di rassicurazione dalla regia, sei tornata tra noi Deborah, buongiorno, bentornata. Proviamo, mi sa che mi toccherà fare la richiesta per ottenere il voucher per una migliore connessione internet casalinga. Proprio in questi giorni, diciamo, ci si stanno di nuovo complicando le cose. Allora, ci provo. Vado? Prego, vai. Andrei con i dati della Covip che vengono diffusi proprio in questi minuti e parliamo cioè di previdenza complementare, come sta andando in questo terzo trimestre appunto di questo anno così complicato. Allora, la Covip, che è l'autorità che vigila sul mercato dei fondi pensione, ci racconta che a fine settembre 2020 le forme pensionistiche complementari contano 9.289.000 posizioni in essere. C'è una crescita rispetto alla fine del 2019 pari a 172.000 unità, più 1,9%, però è una crescita che continua ad essere non totalmente soddisfacente e inferiore rispetto ai periodi precedenti all'emergere della crisi epidemiologica. I rendimenti restano, dice la Covip, nel complesso soddisfacenti nonostante la recente crisi. Quello che a me premeva raccontare, Mauro, è anticipare che noi alla fine del mese organizzeremo proprio come Radio 24 una digital round table sul tema della previdenza complementare, perché effettivamente abbiamo riscontrato come molte famiglie italiane ci stiano chiedendo tante informazioni, perché sono sensibili all'argomento ma brancolano un po' nel buio nella ricerca dell'interlocutore adatto per capire che strumento attivare, che fondo pensione scegliere, quello chiuso di categoria, quello aperto una forma assicurativa, per cui prendendo magari anche a spunto i dati diffusi da Covip questa mattina, direi che sarà il caso di confrontarci con i più accreditati interlocutori sull'argomento. L'appuntamento è per il 26 novembre. Giovedì 26 novembre, confermo, dalle ore 15. Se volete informazioni più dettagliate ancora, avete due possibilità. Vi collegate con il sito di Radio 24, radio24.it, in alto, nei menu, proprio in alto nel sito, trovate la sezione iniziative speciali e lì, raggiungendo quella sezione, trovate tutte le informazioni. Oppure potete scrivere una email iniziativespeciali@radio24.it. Prego Deborah. A proposito di trasporti, io direi che nella puntata di venerdì, visto che a questo punto ci siamo compromessi con gli ascoltatori, l'abbiamo promessa e dovremmo parlarne, potremmo anche fare un punto della situazione sulla nuova proroga per le patenti e i fogli rosa scaduti o in scadenza durante l'emergenza Covid. Perché c'è un termine appunto rinviato dal 1 dicembre al 30 aprile 2021 per tutti questi documenti appunto in scadenza, per cui chi è un po' preoccupato naturalmente può tranquillizzarsi un po', perché nessuno ci verrà a multare in maniera severa nel caso in cui questa documentazione non venga aggiornata, ovviamente secondo i termini previsti, dai termini ovviamente contemplati proprio sui documenti stessi. Questo provvedimento di rinvio, che vale anche per le carte d'identità, vale per tutta Italia e non solo per le zone rosse, che sono state le prime a mostrare criticità proprio per gli esami per le patenti, che si fa un po' fatica a sostenere in questo periodo. Ultima notizia che vogliamo darvi in questo giornale Radio del Risparmio: fate attenzione, anzi verrebbe da dire fate ancora più attenzione in queste fasi di restrizioni nella mobilità, quindi di ricorso spesso alla rete per fare qualsiasi cosa, dal lavoro alle compere, perché si moltiplicano sempre in questi casi le truffe online. Qui c'è addirittura un caso da segnalare che è stato reso noto da Consumerismo No Profit. Un caso di phishing e smishing insieme, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che mandano degli sms che rimandano a degli indirizzi internet, a dei link, e uno clicca magari perché attirato dal tipo di messaggio e risulta invece poi un messaggio truffaldino che spesso vuole carpire i dati dei nostri conti correnti e ovviamente svuotarli. Qui il caso che è stato segnalato è un utente residente a Milano, si è visto svuotare il conto corrente. Lo scorso 27 ottobre aveva ricevuto un sms da un numero verde qualificatosi come servizio clienti PostePay, che diceva deve cambiare urgentemente le credenziali della carta di credito. C'era ovviamente il link truffaldino, insomma lei ha fornito tutti i suoi dati e naturalmente poi è stato sottratto quanto aveva sul conto. È stata anche chiamata poi da un operatore, ovviamente da un finto operatore che si è qualificato come numero verde di PostePay, eccetera eccetera, e l'operatore mirava soltanto a consolidare la truffa. Tutto ciò premesso, cara Deborah, lascio la parola un attimo al nostro sportello reclami, al nostro DDDD, sì. E poi rientriamo subito col primo argomento, bonus mobilità. Dillo a due di denari. Secondo voi, con un bonus di 500 euro per internet, con ISE inferiore ai 20.000 euro, quanti anziani pensi potrebbero richiederlo? Buongiorno. Per quanto riguarda il certificato ISEE, sarebbe ora che lo Stato lo facesse lui, con tutti i dati che ha a disposizione, e automaticamente se uno entra o non entra in quella fascia lo sanno già in partenza. Saluti, Paolo da Verona. Caro Paolo, questo è un altro spunto interessante, perché c'è un ISEE precompilato in predisposizione dall'INPS, ma non abbiamo più saputo se effettivamente è una cosa, che sta marciando a regime oppure no. Ma adesso andiamo al bonus invece per la mobilità. C'è un commentino musicale apposito, mi sembra. Allora Mauro, mi pare che quantomeno per questa operazione molto complicata non sia necessario presentare l'ISEE. Il punto qua è stato il chi tardi arriva male alloggia, perché ancora una volta se tu predisponi un'operazione con un plafond predefinito è chiaro che tutti si affrettano a fare richiesta e intasano poi lo strumento, diciamo, digitale utilizzato per fare domanda. Però il Ministero dell'Ambiente ha detto riapriamo il recinto. Sì, riapriamo la porta. Vediamo come sta andando. Guarda, io non mi voglio sbilanciare. Abbiamo richiamato qui il massimo esperto, direi sicuramente almeno europeo, se non mondiale, della materia. Pierangelo Soldavini, buongiorno Pierangelo, collega del Sole 24 Ore e che tra le tante cose che segue soprattutto questioni del digitale, del mondo digitale, ma anche si è un po' specializzato su questo bonus. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, grazie per la presentazione. È un piacere. Senti, ma facciamogli la prima domanda d'obbligo, è se l'ha ottenuto lui, se è riuscito ad inoltrare le sue credenziali e a far la domanda per ottenere il bonus, perché noi l'abbiamo convocato settimana scorsa proprio come inviato sul campo, direi, in piena regola. Pierangelo, ce l'hai fatta? Sì, devo dire ce l'ho fatta, cioè in realtà ce l'ha fatta mio figlio alle 4:30 del mattino. Questo è il dato di fatto. Hai fatto ricorso a un millennial, generazione digitale, mi pare di capire. Sì, lui si è svegliato appositamente per farlo per lui, l'ha fatto anche per me. E io poi mi sono svegliato poco dopo per vedere le elezioni americane e lui me l'aveva già fatto. Però ecco, a dire la verità, poi chi l'ha fatto la mattina dopo è stato molto più semplice, in 5 minuti faceva tutto, ecco. È stato, come sempre, proprio l'ingolfamento del momento e che io trovo davvero assurdo, nel senso che il Ministero aveva già detto fin dall'inizio che avrebbe soddisfatto tutte le richieste, salvo dire che c'era un plafond di 215 milioni. E quindi questo ovviamente ha scatenato la corsa al numerino, insomma. Ecco, adesso da ieri, dal 9 novembre fino al 9 dicembre, chi non ha avuto accesso può registrarsi, la piattaforma è www.buonomobilita, tutto attaccato così come lo dico, non ci sono accenti, buonomobilita.it, e da qui insomma prenotarsi in qualche modo per il bonus. Sta funzionando? Esatto, perché in questo caso arriverà ai primi dell'anno prossimo, ha detto il ministro Costa, quindi non sarà un arrivo, come dire, contestuale all'inoltro della domanda, Pierangelo. Sì, i nuovi fondi saranno messi in legge di stabilità, quindi arriveranno l'anno prossimo, e c'è la garanzia del Ministero che saranno sufficienti. Io ho avuto i dati di ieri sera, per cui dopo il primo giorno sono state 45.000 più o meno richieste per un totale di 14 milioni di euro. Quindi io immagino che pian piano aumenti questa cifra. Il 9 dicembre il Ministero potrà fare i conti di quello che è stato richiesto e quindi fare richiesta alla giustizia di fondi per coprire queste richieste. Tu hai scritto anche un commento proprio nella giornata successiva a questo sciagurato click day, possiamo dirlo, dicendo: beh, ma tutto poteva essere impostato diversamente, cioè consentendo un caricamento dei dati e poi facendo quello che insomma adesso si fa in questa seconda tornata. Caricate i dati, noi vedremo quante richieste ci sono e stanzieremo i fondi di conseguenza. Perché secondo te non si riesce a superare questa, come dire, persistenza della burocrazia anche nel digitale, della cattiva burocrazia anche nel digitale? Io credo che più che di cattiva burocrazia sia proprio in due aspetti. Da una parte il fatto di dire si è sempre fatto così. Io mi sono sentito dire dal Ministero esattamente questo. Il click day era la prassi normale per fare questo. Poi dopo magari ci sono delle motivazioni di equità, perché dicono: ma insomma, se andavamo in ordine di fattura non era corretto, perché magari uno non aveva i soldi in quel momento, li ha avuti dopo, e quindi non è corretto. Ma di fatto poi dopo si fanno comunque delle preferenze, perché magari chi ha avuto accesso era quello che aveva una banda più larga, quell'altro che era in una situazione più sfortunata faceva più fatica. Chi ha avuto poste ID, per cui aveva lo speed di poste, è stato escluso, e chi è entrato a fatica. Quindi insomma, comunque è stato un disastro. Ma la cosa più importante, io credo, sia proprio il fatto che non si ragiona in termini di digitale. Noi sostanzialmente con il Quick Day cosa facciamo? Attraverso una piattaforma informatica rimettiamo in coda, come se fossimo un enorme ufficio pubblico, la gente con un numerino, che è proprio il contrario di quello che il digitale ci permette di fare. Cioè non sfruttiamo le potenzialità dei nuovi strumenti, insomma, ma replichiamo nel digitale i meccanismi dei vecchi, compresi i difetti. Sì. Amazon non fa così. Non ti dà il numerino. Per carità, non citare Amazon. Non lo citare, per carità. Esatto. Già ci accusano di essere dei sostenitori. No, ecco. È per fare un esempio. Certo. I ragazzi sono abituati a questo. E secondo me la cosa negativa di questo aspetto è che proprio i ragazzi erano quelli che erano più attenti a questa cosa e che erano più attratti. E una cosa positiva, come ti do dei soldi da parte dello Stato, è diventata assolutamente negativa e restringente proprio per i giovani, perché capiscono che comunque lo Stato è restringente, anche quando ti dà dei soldi. E questo lo Senti, volevo fare... Prego, un'ultima Deborah. Domanda a Pierangelo, perché tra le altre tematiche, tardissimo, ma era una curiosità che forse qualche ascoltatore si vuole togliere, tra le altre problematiche che hanno mandato nei pasticci il sito appunto Bonus Mobilità per fare la domanda per il Bonus Mobilità, per l'appunto, c'era anche la questione della possibilità di prenotare questo bonus anche perché ancora materialmente non avesse acquistato il nuovo mezzo, ma prometteva appunto di farlo prossimamente. Ecco, esiste la possibilità di stimare quante persone abbiano fatto anche questa prenotazione, perché tu stesso, Pierangelo, avevi un po' contestata dicendo ma insomma magari per primi accontentiamo chi già materialmente può dimostrare di aver fatto l'acquisto, perché poi non è detto che le persone che prenotano il bonus vadano domani, nelle prossime settimane, appunto a acquistare il monopattino o la bici elettrica e quant'altro. Anzi, c'è già un mercato secondario sempre di questi voucher online che girano in qualche modo. Ecco, detto questo, i dati ufficiali sono più o meno 600.000 richieste nel giorno del Click Day, di cui più di 300.000 per rimborsi e 260.000 di voucher. Quindi anche i voucher sono stati molto richiesti e devono essere spesi entro 30 giorni presso i negozi convenzionati. Mentre invece questa nuova tornata è soltanto per i rimborsi. Non c'è più la possibilità di ottenere i voucher per acquisti futuri. Bene, grazie Pierangelo. Anche a te la solita raccomandazione: non lasciare il paese, perché penso che avremo ancora bisogno di tornare su questi meccanismi di Click Day, non solo sul bonus mobilità. E adesso è un po' in ritardo, ma Deborah, sarai sicuramente telegrafica nel raccontarci le borse. Ho apprezzato particolarmente il sapiente uso dell'enjambement. Di denari. Dottor Mauro, perché non ci parli un po' dei tuoi investimenti speculativi di cui parlano Milan e Manera? Ci sono 18 gradi, penso che si possa fare a meno delle gomme da neve, oppure la lobby dei gommisti ha sempre ragione. Ma scusate, perché almeno in città non mettete le all season, cioè le gomme che vanno bene sia d'inverno sia d'estate? Ma anche per quanto riguarda la revisione, io ad esempio ho un'automobile che devo fare la revisione entro il mese di novembre. Purtroppo sono in zona rossa, come mi devo comportare? Allora, cara Deborah, prendiamo nota di tutte queste cose per la puntata di venerdì, oramai prenotata. E invece, per quanto riguarda i miei investimenti, io, come dicono sempre Manera e Milan, così simpaticamente, ma talvolta anche no, le birinzine sono l'investimento del momento. Altrimenti vi posso consigliare l'acquisto di un volume molto interessante, si chiama Investire è facile, il titolo è Investire è facile anche nei momenti difficili. Gli autori sono Deborah Rosciani e Mauro Meazza, mi pare. Dico bene, Deborah? Mi sembra che tu sia assolutamente sul pezzo, come lo siamo naturalmente anche in questa seconda parte della trasmissione, nel corso della quale ci dobbiamo occupare, come promesso, delle bonus per PC o tablet, dedicato a tutte quelle famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro. Allora, c'è un ascoltatore che proprio poco prima di andare in onda, Mauro, ci aveva mandato una mail che mettiamo insieme a tutte le richieste che ci sono arrivate da venerdì, da quando abbiamo già introdotto l'argomento. L'ascoltatore ci chiede: da febbraio ho stipulato con una grande compagnia di telecomunicazioni un contratto con Fibra, avendo due figli che frequentano l'università. Posso richiedere adesso il bonus dei 300 euro per un tablet? Ho provato a cercare in internet e parlare con il call center della compagnia, che è una primaria compagnia italiana, direi la più grande, senza fare nomi e cognomi, ma non riesco ad avere risposta. E pensa che ho trovato nel pezzo che ha scritto questa mattina Andrea Biondi per il Sole 24 Ore che sono ben, Mauro, 40 gli operatori di telefonia accreditati presso l'apposito portale, quindi potranno appunto rendere disponibile questa sorta di servizio a tutti gli utenti necessari. O almeno noi ci auguriamo che sia così. Vediamo che cosa ne dice Gianfranco Giardina, che abbiamo nuovamente interpellato ed è qui ai nostri microfoni, direttore, come sapete, del portale di tecnologia dday.it ed è esperto naturalmente anche di audio, video, elettronica di consumo. Allora Gianfranco, diamo subito la risposta all'ascoltatore. Lui ha già un contratto con la Fibra, ma a questo punto chiede: posso chiedere l'altro voucher, quello per il tablet? No, assolutamente no, purtroppo, perché innanzitutto il voucher è uno solo ed è per un'offerta che comprende contemporaneamente sia l'attivazione di una linea in banda ultralarga che l'acquisto, diciamo, scontato del device. Quindi le due cose devono avvenire contestualmente e la condizione è che si passi o da nessuna connettività presente ha una connettività superiore ai 30 megabit in download, oppure in alternativa che si abbia già una connessione ma di tipo lento, tipicamente una DSL, quindi inferiore ai 30 megabit, e si passi a un collegamento in banda considerata ultralarga, quindi superiore ai 30 megabit. Soltanto per migliorare o per avere una connettività o per migliorare una connettività, ma questo da oggi in poi, non retroattivamente, si può accedere a questo complicato voucher. Quindi questo ascoltatore, che ha già provveduto a migliorare la sua connessione, purtroppo non ha diritto ad aderire. Questo per la prima fase, ma anche per la seconda fase, cioè quando ci hanno detto che ci sarà successivamente una possibilità, non cambieranno queste regole, lì si alzerà a quanto pare l'ISEE, cioè dovrebbe comprendere non più come ora fino a 20.000 euro, ma salire fino a 50.000 euro. Non sappiamo ancora da quando, mi pare, Giardina. No, non si sa ancora quando. La fase 2 prevederà appunto l'innalzamento della soglia fino a 50.000 euro, ma uno sconto che arriverà a 200 euro e soltanto sulla connettività, quindi il device scompare, il PC o il tablet non c'è più, si parla soltanto di sconto per fare diciamo l'acquisto della connettività e quindi favorire la digitalizzazione e la connessione degli italiani. Diciamo, di questo voucher si parla da tanti anni e poi le recenti vicende legate al Covid-19 hanno accelerato e fatto sì che l'implementazione fosse molto più veloce di tutto quello che è successo nei mesi, negli anni scorsi, però appunto con qualche difettuccio qua e là. Deborah. Allora, sì, ritorno proprio sull'aspetto che sollevavo prima. Per usufruire del bonus, il passaggio da fare è, lo ribadiamo Gianfranco, contattare l'operatore di telecomunicazioni che partecipa all'iniziativa, che è accreditato presso Infratel Italia. Al 4 novembre, lo ribadisce il Sole 24 Ore questa mattina, gli operatori accreditati erano 40. Sono rimasta molto colpita da questo dato, perché chiaramente conosciamo molte aziende di telecomunicazione, ma che addirittura ce ne fossero decine e decine disponibili a me sfuggiva, e anche qua insomma manifesto la mia arretratezza digitale. E dobbiamo quindi prima di fare questa richiesta del bonus, verificare di parlare con l'operatore accreditato presso Infratel Italia, giusto? Sì, al 10 novembre ti do il dato più aggiornato, sono 85 queste società di telecomunicazioni. Ma da dove arriva questa gente? Ma ci sono tante società di telecomunicazioni locali che gestiscono in realtà dei mercati molto locali, e lo fanno anche con connessioni che non sono in fibra, ma che sono connessioni via radio su tecnologie apposite. Installano, diciamo, un'antenna che riceve un segnale da un ponte radio, e quindi permettono di avere connessioni simili a, diciamo, a queste, alle velocità richieste, non sempre, e certamente non sempre con la velocità garantita richiesta da questo bando, che è molto stringente. Addirittura, se noi stessimo su quello che il bando chiede in senso stretto, soltanto la fibra, ma cosiddetta fiber to the home, quindi la fibra che arriva in casa, fino in casa con la fibra, solo quella potrebbe forse garantire diciamo questi requisiti molto stringenti imposti dal bando e da Infratel. Diciamo che in questo momento si sono candidati 85 società che hanno sottoposto la loro offerta al ministero, al MISE e a Infratel per l'autorizzazione a procedere. Comunque, come dicevi correttamente, si fa tutto con il gestore, quindi si apre la pratica col gestore, la pratica deve corrispondere quindi a un'apertura di una nuova connettività o un miglioramento della connettività entro i parametri così prescritti. Bisogna produrre un'autocertificazione dove si dice che il proprio nucleo familiare innanzitutto non abbia già fruito di questo bonus, che può vale ovviamente uno solo per nucleo familiare, e poi si abbiano i requisiti reddituali, quindi questo ISEE inferiore ai 20.000 euro. Visto che le procedure sono partite ieri, si stanno mettendo in moto, direi che ancora non è successo niente. Alcuni sembra che stiano chiedendo il certificato ISEE e quindi non un'autocertificazione, questo per cautelarsi rispetto al fatto che possano esserci delle dichiarazioni mendaci, e quindi il fatto che poi in qualche modo, a fronte di un controllo, lo Stato richieda alla telco il rimborso di quanto dato, no? E quindi dopo ovviamente poi recuperarle magari dal cittadino diventa più complicato. Vi fermo perché è il momento del traffico. Due di denari. Puntano al 5G. Puntano al 5G che rovina le menti, che fa male il 5G, io ascolto questi medici. Ecco, magari prendiamo un attimo le distanze da questo tipo di commenti, Gianfranco, capiamo che è una fake news. Ecco, sì, no, mi dispiace. Ci sono poi queste preoccupazioni, per carità, comprensibili in un momento delicato dal punto di vista proprio sanitario come questo, però ecco, evitiamo magari di dare ulteriore alimento a queste paure infondate. Scusate, io ho diverse curiosità, ma una nuova famiglia in teoria dovrebbe avere accesso al bonus se due persone ad esempio vanno a convivere e avviano un nuovo nucleo familiare, però non avrebbe l'ISEE, quindi mi viene da dire, come si fa con un nucleo familiare di nuova costituzione, Gianfranco? C'è la possibilità o è perduta? Ma allora, essendo tutto su base autocertificativa, io non ho le competenze ovviamente per dirlo, però se uno proietta i propri redditi e presume che avrà un ISEE inferiore ai 20.000 euro nel corso dell'anno e quindi a fronte di un controllo possa dimostrare di non aver dichiarato il falso, può procedere tranquillamente con l'autocertificazione. C'è un'altra domanda. Quantomeno per i gestori che non richiedono il certificato effettivo. Ecco, certo. Diciamo così. C'è un'altra domanda che forse ci dà il modo di precisare un'altra particolarità, cioè quella che in alcune regioni questi voucher non sono disponibili in tutta la regione. Ci ha scritto un ascoltatore e dice: ma se non mi arriva proprio la fibra, non solo, ma anche se non, il tuo comune non è compreso, mi verrebbe da dire. Giusto, Gianfranco? Queste sono stranezze del famoso titolo quinto della nostra Costituzione che fanno sì che venga lanciato un voucher a livello nazionale, ma poi le singole regioni hanno chiesto, alcune singole regioni, di includere solo alcuni comuni, e quindi comuni dove ritengono che la diffusione debba essere maggiormente incentivata. E quindi in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana bisogna prima controllare che il proprio comune, poi lo fa ovviamente il gestore telefonico, ma che il proprio comune sia compatibile con, o meglio, che sia autorizzato a ricevere questi voucher. E questo si fa sul sito bandaontralarga.italia.it con un link lunghissimo che non vi posso chiaramente leggere per radio, ma ci sono delle lunghissime liste di comuni dove ovviamente i capoluoghi di provincia o i comuni più importanti non sono compresi. La ratio è quella di favorire la diffusione, diciamo, laddove magari c'è meno propensione naturale all'adozione di banda ultralarga. Debora. Allora, sì, Gianfranco, un altro tema che pure ha già scatenato qualche perplessità è quello dell'ottenimento del modem, il computer o il tablet, cioè tutto il côté tecnologico legato al servizio di connettività. Se è inutile chiamare un operatore per chiedere se si attiva il nuovo servizio al fine di ottenere il bonus e poi dirgli: guarda, io ho già tutta la dotazione tecnologica, dobbiamo prendere tutto il pacchetto completo. Sì, i pacchetti sono, diciamo, precostituiti. E in realtà diciamo, la norma lascia flessibilità al gestore telefonico, una certa flessibilità. Cioè lo sconto sulla connessione può variare da 200 a 400 euro, mentre quello sul device da 100 a 300 euro. Ovviamente il totale deve sempre fare 500, quindi lo sconto è totale di 500, ma tutte le composizioni possibili entro le forchette che ho detto possono essere configurate. Quindi un gestore potrebbe dire 240 euro, per esempio, ne cito uno perché ce l'ho davanti, ecco, 240 euro è lo sconto per l'attivazione e la gestione della fibra. Mentre 260 euro saranno scontate sul device. Poi attenzione, perché cioè, non dico che sia un serpentone corallo, ma bisogna stare un po' attenti, perché per esempio alcuni questo sconto te lo danno più velocemente possibile, quindi te lo ergono nel corso del primo anno. Altri ti dicono: sì, sono 240 euro, ma 10 euro di sconto al mese, quindi per 24 mesi, quindi tu recupererai, insomma, il tuo voucher nel giro di 24 mesi, quindi in ogni caso non sarà questo sconto realizzato immediatamente. Per quello che riguarda il device, Gianfranco, no, sì, volevo sapere se Gianfranco avessi già avuto modo di fare una verifica rispetto agli operatori su quella che è l'offerta maggiormente praticata e proposta alla clientela. Qual è la soluzione? Ma, quella che spalma lo sconto su un abbonamento di 2 anni, oppure tutto in un'unica tranche, in una tranche più ridotta? Allora, il punto è che alcuni gestori ancora non hanno pubblicato la loro offerta, cioè si sono candidati, stanno facendo validare la propria offerta al ministero, ma non sono ancora pronti. E la partenza è un po', diciamo, rallentata, anche dovuta al fatto che pende un ricorso al TAR del Lazio contro questo provvedimento, fatta da Aires, Ancra e quindi dai retailer e i rivenditori di elettronica, perché si ritengono, come dire, bypassati, e comunque nella vendita del device che avverrebbe, certo, direttamente da parte del gestore. Questa richiesta di sospensiva verrà discussa il 20 novembre prossimo, e quindi può essere che tra 10 giorni siamo qui a chiederci diciamo di come dovrà essere riformato il provvedimento e poi ripartire successivamente. Quindi potrebbe essere anche una partenza falsa. Detto questo, il mix è occhio e croce, diciamo 50-50, perché tra device e connettività. Il problema è il device, quindi questo tablet o PC ha delle caratteristiche che sono stabilite dal ministero, e le caratteristiche sono praticamente irraggiungibili per il PC. L'unico PC che ha veramente tutte quelle caratteristiche è un PC che costa intorno ai 2500 euro, quindi è assolutamente fuori portata rispetto a qualsiasi acquisto di un ISEE minore di 20.000. Sì. E quindi praticamente la stragrande maggioranza dei gestori, tranne uno che è Tim, offrono solo il tablet, quindi si potrà avere soltanto un tablet, che tra l'altro non è un tablet in generale, ma generalmente è un modello solo, perché è l'unico che risponde alle specifiche che, a pensar male, insomma, sembrerebbe essere state scritte ad hoc su quello specifico device, perché sembra incredibile che nello scrivere delle specifiche minime di un tablet, e scrivendole di recente, si riesca a identificare un solo prodotto compatibile. Beh, ecco, a questo punto, Gianfranco, 10 secondi, dici qual è il tablet, perché non lasciarci nella curiosità. Il tablet è il Samsung S6 Lite, che è sicuramente un buon tablet, però per esempio c'è stato fissato un requisito da 4 GB di RAM. Se fosse stato lasciato anche a 3, sarebbe rientrato anche allo stesso prezzo, per esempio, l'iPad di Apple, che sicuramente sia dal punto di vista dell'attrattività per l'offerta delle telecomunicazioni, certo, che la notorietà, sarebbe stato sicuramente più d'appeal. Ma comunque ti fermo perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Deborah, tu domani non ci sarai, giusto? No, non ci sono, ma guarda, con tutto quello che ho sentito stamattina mi conviene rinchiudermi nelle caverne. Ho deciso che farò questa scelta. Ma no, dai, torna giovedì. Grazie a tutti. Buona giornata.